America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. His ashes will be taken across the country, leaving Havana on Wednesday and traveling all the way to Santiago de Cuba, arriving there. Beh, avete sentito, l'America parla naturalmente di Fidel Castro, dei funerali, dei 9 giorni di lutto. Oggi, tra l'altro, le ceneri saranno esposte in Piazza della Rivoluzione a L'Avana, come parte di queste lunghe celebrazioni della vita di questo leader straordinario cubano, un leader che però alla fine è arrivato anche lui al suo appuntamento con la storia, al suo appuntamento con l'America, se vogliamo, perché dopo aver sfidato ben 11 presidenti americani, Fidel Castro è uscito dal palcoscenico della storia. L'America resta, l'America è rappresentata da una successione di presidenti che così svolgono il loro ruolo in nome delle istituzioni. Da una parte c'è la continuità, dall'altra c'è un leader che è stato rivoluzionario ma che ha fatto, come dire, una fine alquanto malinconica. Comunque, vi dicevo, da oggi partono queste celebrazioni. Mercoledì le ceneri saranno trasferite nella provincia orientale a Santiago di Cuba, e l'idea qual è? Quella di ripercorrere al contrario, all'indietro, l'itinerario della carovana della libertà che Fidel guidò fino alla rivoluzione contro Batista nel 1959. Partì da Santiago per arrivare a L'Avana, qui si fa il percorso inverso. Ecco, se a Cuba c'è il lutto, a Miami invece, e soprattutto a Little Havana, c'è un'altra atmosfera. Sentiamo. Cuba libre, libertà, libertà. Certo, non è carino, come dire, rallegrarsi dalla morte di qualcuno, ma per gli esuli cubani, c'è l'aspetto simbolico molto concreto della fine di un'epoca che ha cambiato drasticamente, per alcuni loro drammaticamente, le loro vite. In realtà, coloro che vivono con grande partecipazione e passione anticastrista questo momento sono, secondo me, una minoranza, perché dei 2 milioni di cubani che sono in America, che sono soprattutto in Florida, la grande maggioranza ormai sono dei giovani integrati che guardano al loro futuro in America, non pensano di rientrare o di ritornare a Cuba. Ma sentiamo proprio dalla Florida le reazioni di un politico che ha cercato di diventare presidente, figlio di esuli cubani. Sentiamo Marco Rubio. I would hope they would send no one to the funeral because while you may want to open up to Cuba, there's no reason why we should be opening up to Fidel Castro's legacy. Ecco, Rubio molto chiaro, dice: io mi auguro che dall'amministrazione Obama non ci sia nessuno pronto ad andare ai funerali di Castro, perché una cosa è voler normalizzare le relazioni con Cuba, un'altra è, come dire, aprire all'eredità di Fidel Castro. Questa è stata una dittatura caratterizzata da omicidi, arresti e esili forzati. Ecco, lo stesso messaggio arriva da Newt Gingrich su Twitter, dice: Obama, Biden, Kerry non devono recarsi ai funerali di Castro per nessuna ragione al mondo, è stato un tiranno. Trump naturalmente non poteva mancare, è stato lapidario, però ha detto semplicemente: Fidel Castro è morto, col punto esclamativo, non un commento. Mike Pence invece, più espansivo, dice: il tiranno Castro è morto, è l'alba di una nuova speranza, saremo al fianco del popolo cubano presso per costruire una nazione libera e democratica, viva Cuba libera. Ecco, la combinazione vuole che oggi, lunedì, nel momento in cui le ceneri di Fidel Castro saranno esposte al pubblico, ci sarà il primo volo commerciale regolare fra gli aeroporti americani e quelli cubani. Ci sarà un volo di American Airlines, però è soltanto la partenza, perché 6 compagnie aeree finiranno per fare un centinaio di voli al giorno, 100 voli al giorno, pensate. Come dire, ormai la macchina si è messa in movimento. Io non credo che Donald Trump, nonostante la sua retorica, possa frenare questa macchina in corsa. In questo momento, tra l'altro, è preoccupato da ben altri problemi, cioè deve chiudere la sua squadra e c'è un problema per la nomina del segretario di Stato. Una delle più importanti manager della sua campagna elettorale, Kellyanne Conway, ha dichiarato alla CNN che lei è per l'unità del partito, ma è contro la nomina di Mitt Romney alla guida del Dipartimento di Stato. Ecco, c'è stata una spaccatura all'interno del gruppo di Trump. Trump, gli era piaciuto molto Mitt Romney, era disposto a perdonarlo per l'aggressività che lui aveva esposto durante la campagna elettorale contro la sua persona, però gli altri non sono d'accordo. Vedremo come andrà a finire. Molti problemi in questo momento per Donald Trump, inclusi quelli dei conflitti di interesse, perché sembra che molti dei suoi affari all'estero coinvolgano in qualche modo persone vicine al leader straniere. Insomma, le montagne russe post-elettorali americane continuano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano4.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, parlando di Cuba, mi viene in mente una canzone che auspicava l'apertura degli Urge Overkill. Sister Havana, come dire, ma in fondo l'Havana è molto vicina, dobbiamo considerarla una sorella, una canzone rock. Come around to my way of thinking. Don't you want to get along? Every day just like a vacation with you. When I'm watching you and Fidel Castro in the sand, just saying, girl, you got. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!